Molti dicono che l'emigrazione c'è sempre stata, che i popoli sono sempre mossi, ma oggi c'è un'emigrazione che è frutto di uno squilibrio mondiale che prima non c'era e che quindi ha elementi di drammaticità assoluti e che sembra continuamente però rimarcare una costante, che è quella di un mondo che è diviso in sfruttati e sfruttatori, in paesi ricchi e in paesi poveri. E quindi da questo punto di vista, questa dinamica, questa costante storica che è legata all'immobilità del mondo, perché insomma il progresso spinge il mondo avanti verso frontiere più o meno avveniristiche, però che ci sia una costante di disuguaglianza, eccetera, questo fondamentalmente è l'immobilità della storia. Insomma. Le grandi utopie hanno sempre visto un passaggio, diciamo, un'evoluzione della storia solo attraverso la rottura di questo continuum, che invece oggi, nonostante le grandi promesse della modernità, non si sono mai rotte. Palma ci ha dato modo, attraverso il rintracciare anche delle sopravvivenze esteticamente rappresentanti di un mondo arcaico, proprio questa costante, questa immobilità. Il mio approccio col mondo contemporaneo è un approccio estremamente pessimistico rispetto alla realtà che stiamo vivendo, proprio perché mi trovo a vivere in un mondo in cui credo per la prima volta dopo secoli, almeno nella cultura occidentale, chi vive il mondo contemporaneo non è in grado di avere un progetto di riferimento rispetto alla propria storia. E questa è una cosa assolutamente drammatica del nostro tempo. La stessa storia del migrante, cioè in realtà il migrante siamo tutti noi, siamo tutti migranti, se consideriamo la storia del migrante, la storia di uno che non è padrone delle proprie scelte. L'idea che questo personaggio, che parta da una situazione simile, dopo mille fatiche, arrivi in un posto assolutamente simile a quello che ha lasciato, e che poi spesso, come succede quasi sempre, viene preso e rimandato a casa, è una metafora fortissima dell'impossibilità di avere un progetto della propria esistenza, ma ancora più profondamente una specie di mito di Sisifo, no? Cioè proprio la fatica dell'esistere, il compiere una fatica inutile che appunto è la fatica dell'esistenza, oggi ancora più fortemente rimarcata da una storia che non dà speranze di progetto. Il meccanismo, il catalogo degli altrove è stata una cosa rispetto al quale abbiamo prestato proprio cura, uno dei registri su cui abbiamo lavorato, che è un meccanismo assolutamente classico, sociologicamente classico. Quando io ho una realtà che non mi appaga, mi rifugio in degli altrove. Questi altrove sono fisici, come nel caso dell'emigrazione, ma molto spesso sono mentali. E allora, per esempio, la presenza ossessiva del contesto religioso, per esempio. Poi i meccanismi dell'altrove classici, come quello religioso, cioè si sommano a quelli della contemporaneità. E la morte, ovviamente, è l'altrove massimo. Cioè, Palma, una delle cose che saltano agli occhi a Palma, che ha questi quartieri abusivi, che sono stati costruiti peraltro, che devo dire hanno assunto una loro rispettabilità se uno li confronta con la loro storia, perché sono quelle case che i migranti si sono costruiti mattone su mattone, quindi col sudore del loro lavoro fatto all'estero e con l'amore, insomma, che li legava alla prospettiva del ritorno sulla propria terra, però che non sono mai curati all'esterno, e invece c'è un cimitero curatissimo. Cioè, tutto ciò che riguarda i percorsi della morte, cioè il proiettarsi nell'aldilà, è insomma un elemento fortissimo, un elemento di grande poeticità, secondo me anche di grande tristezza, quando viene constatato sul luogo e vissuto insieme a chi lo vive quotidianamente. Ciao, Marco. Se tu promessi, non ci vado. Chi tu mi ci vuole portare per forza, donna, come Tutti gli attori sono tranne due, che sono appunto Yousif e Francesco Teresi, che Ora è 5 per sono rigiare due tutto, ma io mi professionisti, metto che appaga. poi tutti gli Tu attori, ma promessi, questo come ci rientrava vai, non ci perfettamente vado. nei presupposti, diciamo, dell'operazione del progetto, sono palmesi. Il casting, per esempio, è stata veramente un'esperienza estremamente interessante, perché è stata la prima verifica, tutto sommato, per constatare che quello che stavamo raccontando era vero. Ecco, la storia per esempio di Michele, che è di Michele che è il protagonista, è quello che fa Gaetano, Michele ha un padre emigrato in Germania. Quando io ho fatto il provino a Michele, che poi è un ragazzo estremamente allegro, cazzeggione, insomma, però doveva rappresentare un personaggio che viveva una settimana di passione, e quindi gli ho chiesto di farmi vedere se era capace di riuscire a trasformare la sua espressione così allegra in una triste. E gli ho consigliato di pensare ad una situazione triste della sua vita. E lui ha fatto una cosa straordinaria, insomma, è riuscito ad arrivare quasi alle lacrime. Però io l'ho chiamato e gli ho detto: "Guarda, il provino per me è andato bene, però io voglio da te sapere che cosa hai pensato quando ti ho chiesto di pensare ad una situazione triste". E lui mi ha detto: "Ma sai, io ho mio padre che lavora in Germania, adesso da un po' di tempo era tornato qui a Palma perché aveva trovato un lavoro. Poi l'ha riperso ed è stato costretto a tornare in Germania. Io sono molto legato a mio padre, l'ho accompagnato al pullman, è stata una cosa molto triste. Ho pensato a questo". Gaetano non sapeva nulla, nessuno di loro sapeva nulla della storia del film. Ecco, questo dà l'idea di come poi le storie di chi ha lavorato nel film coincidessero, il loro vissuto comunque coincidesse con la storia che noi stavamo raccontando.